the best rock and roll station in the world. It's Rock FM. One morning, I woke up and I knew a new day, a new way, and new eyes. Lord, the way of the mind is gone. The sky is clearing and the night. Fables are able. Now witness the quickness with which we are to sing the blues. You got to live the blues. Prima abbiamo ascoltato Neil Young da solo, qui con i suoi compari di merende Crosby, Stills, Nash & Young, con le note della storica Carry On, e siamo entrati anche negli ultimi nostri 60 minuti, l'ultima ora, quella che ci porterà alle 12, poi cederò il passo da ieri a Claudia. Sì, queste ultime tre settimane ci sarà Claudia dalle ore 12 fino alle 14, invece Mox Cristadoro lo trovate proprio in serata dalle 21 alle ore 23. To yourself, I didn't know I was. Oh, Can Coming of Age, super gruppo, un paio di album pubblicati, una videocassetta all'epoca live, probabilmente tramutata in DVD. Damien Kiss con Tommy Shaw, Michael Cartellone, cognome che mi è rimasto impresso, come batterista, e Ted Nugent anche lui, in questa formazione chiamata appunto Damien Kiss. Li abbandoniamo perché tra breve abbiamo anche l'ultimo compleanno in ordine di tempo che ci porterà a parlare di un membro dei Foo Fighters, ma intanto abbiamo Sanctify Yourself, Simple Minds. Self, Simple Minds. Vi avevo anticipato l'ultimo compleanno per questo 6 di maggio, il più giovane tra tutti quelli che abbiamo elencato quest'oggi. 1971, l'anno di nascita, la giornata naturalmente è quella odierna. Lui si chiama Chris Shiflett, chitarrista con i Foo Fighters. Il compleanno del giorno. Running down. to Fly, l'ultimo compleanno per il chitarrista della band dei Foo Fighters. Chiudo il librone quindi dei compleanni e vado e mi accingo a regalare due biglietti per un concerto che si terrà il 21 di maggio, è un mercoledì, la location è l'Alcatraz, quindi la città è quella di Milano. Lei è fuori uscita, anzi è stata licenziata dai Nightwish un po' di tempo fa, ma verrà, è già venuta a trovarci in un'intervista effettuata con Claudia, però questa volta viene dal vivo. Allora, annullo, caro amico Gabriele che stai inviando gli sms, non ho ancora detto, no, perché sennò dopo nascono le problematiche, che appena inizio un regalo qualcosa arrivano le richieste. A parte che il concerto è quello di Milano, 21 di maggio, Alcatraz, Tarja Turunen, ex cantante dei Nightwish, quindi con la sua band, il suo tour, il suo album solista e sicuramente qualche canzone dei Nightwish verrà inserita in scaletta, almeno penso. Nome e cognome indirizzate a partire da ora, 335-100-7777. I primi due sms che arrivano avranno in omaggio il biglietto per questo concerto. 21 di maggio, Alcatraz di Milano, Tarja Turunen. con Hot Blooded, stop all'invio dei vostri sms. Già da un po' di minuti sono arrivati quelli di Danilo e Lorenzo, i primi due che si sono accaparrati anche proprio i primi due biglietti dai 10 che abbiamo a disposizione per questo concerto, che ripeto è quello dell'ex cantante dei Nightwish, Tarja Turunen, che si terrà il 21 di maggio all'Alcatraz di Milano. Abbiamo raggiunto le 11:30, entriamo nella nostra ultima mezz'ora e tra breve cederò come sempre il microfono a Chuck Bird, ai suoi aneddoti, al suo spazio, alla sua rubrica Backstage Pass. I'll feel the song, song, a buzzing in my head like a bomb, don't listen.